Solo tu, sempre tu, ancora tu che porti le buone nuove, ma tu, sempre più, se soffi c'è una ragione, sempre tu, ancora tu, aspetto il tuo rinfrescare, che tu, solo tu, riesci a darmi e mi dai, trasporta via i miei guai, non ti di passione, spostami, spostami e non mi importa dove, solo noi nell'universo insieme, ma dimmi ancora che sei così freddo nel calore, prendimi, prendimi, non mi aspetto niente, vento che soffierai lontano. Io non lo so se sei tu che mi puoi già dimostrare che sei tu, solo tu, il vento che fa cambiare, che mi ridarà la voglia di andarti incontro e chissà come andrà se avrò la forza di fare, ma tu, solo tu, mi puoi davvero insegnare di più perché aspetto dentro di te. Che viaggi insieme a me e dimmi almeno se c'è posto per i miei sogni. Portami, portami, vento di passione, spostami, spostami e non mi importa dove. Solo noi nell'universo insieme, ma sei così freddo nel calore, prendimi, prendimi, non mi aspetto niente, vento che soffierai lontano da qui. Lontano.